rotola, rotola, rotola, strada facendo rotola, rimbalza qua e là. La la la la la, rotola, rotola, rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà? Tratta il mio cuore così come fosse un barattolo, lo fa girare qua e là senza nessuna pietà, forse neppure lo sa perché lo fa. Rotola, rotola, rotola, strada facendo rotola, gira, rimbalza e rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà? Tratta il mio cuore così come fosse un barattolo, lo fa girare qua e là senza nessuna pietà, forse neppure lo sa perché lo fa. Rotola, rotola, rotola, strada facendo rotola, gira, rimbalza e rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà? Dove mai finirà? Dove mai finirà? Dove mai finirà?